Allora, la nostra ricerca, qui presentiamo essenzialmente le linee di un progetto di ricerca, forse più che proprio come dire, dati in qualche modo già organizzati e capaci quindi di essere valutati globalmente. Questa ricerca ha preso avvio dall'incontro con alcune figure di donne vissute nella prima metà del Novecento che hanno scritto di storia. Un incontro abbastanza casuale all'inizio, scaturito dalla memoria di nomi o scritti che hanno attraversato in altri tempi le nostre ricerche, senza lasciarvi allora nulla più che una traccia. Vi siamo tornate per farne il punto di avvio di questo lavoro, senza ancora un'idea precisa del tipo di riflessione a cui ci avrebbero indotto. Alcune erano figure di indubbio rilievo, storiche di mestiere, docenti universitarie negli anni 30 e 40, oppure donne che hanno fatto ricerca e scritto di storia senza una corrispondente collocazione istituzionale, ma con continuità, fino a farne quasi un impegno di vita. Invece di altre, molte, era più difficile ricostruire il profilo. Erano insegnanti di scuola media superiore. Altre probabilmente archiviste, questo poi sarebbe un punto molto interessante da approfondire. Hanno scritto qualche saggio, hanno scritto alcuni opuscoli, qualche libro. Al di là delle singolarità di ognuna, alcuni elementi ci parevano comuni. Contesti biografici e familiari per le universitarie. Impegno storico militante, come vedremo, per le altre. Insomma, dati e spunti certamente ancora tutti da elaborare, ma che ci hanno indotto a scartare, come meno significativa in questa prospettiva, la presentazione di singole figure, per tentare invece una prima proposta di ricostruzione dei contesti familiari, generazionali, istituzionali, politici, in cui prende corpo in Italia il rapporto tra le donne e la storia. La storia come ricerca, come scrittura di storia, ma anche come divulgazione e trasmissione di memoria. Dagli ultimi decenni dell'Ottocento agli anni del secondo dopoguerra. L'intento, insomma, è quello di studiare in una storia appena iniziata della cultura delle donne e dell'intellettualità femminile in Italia, quale posto ha occupato la cultura e la ricerca storica e per quali tramiti le donne accedono agli studi di storia. Per ragioni di brevità accenneremo solo indirettamente nel corso dell'esposizione alle fonti di cui ci siamo servite per la messa a punto di questa presentazione per temi del nostro progetto di ricerca, fonti che sono molteplici. In realtà però è il caso di ribadire fin da ora l'importanza delle fonti di tipo istituzionale, a partire da quelle ufficiali del Ministero della Pubblica Istruzione, che possono essere ricche di dati non soltanto sulla presenza numerica, sulla distribuzione geografica, sulla distribuzione per ordini di scuola delle donne insegnanti e sulle discipline da loro insegnate, ma che ci può consentire anche una lettura più da vicino di alcuni passaggi decisivi nelle carriere accademiche delle donne, come ad esempio la libera docenza, che abbiamo visto insomma anche dalla relazione di ieri, che è un punto importante sul quale potremmo istituire anche confronti da paese a paese, l'ammissione alle terne di concorso, i successivi passaggi di carriera, anche sulla base di relazioni che entrano nel merito della produzione storiografica. Un caso per esempio è quello di Teresa Labriola, che partecipò appunto ad una futernata, insomma, in un concorso, mi pare nel 1906, e c'è una relazione del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione in cui appunto si chiede ragione del fatto di aver inserito Teresa Labriola, una donna, in questa terna concorsuale. Quindi, ecco, quindi possono dare insomma fonti molto interessanti. Quindi sulle fonti in realtà glissiamo, invece vorremmo discutere la periodizzazione che abbiamo scelto e che comprende un arco di tempo molto lungo, dagli ultimi decenni dell'Ottocento idealmente fino agli anni 50. Un periodo molto lungo al cui interno in realtà vi sono scansioni rilevanti e per il quale ai fini della nostra ricerca sarà opportuno tenere presenti più cronologie e anche diverse tra loro. Una periodizzazione così ampia potrebbe anche suggerire la volontà di riproporre una tipologia che è fortemente ideologica e quale quella che appare, come osservava Claudio Pavone, in tanti discorsi scritti, testate di riviste e giornali usciti dopo il 45, ma anche nel titolo di un libro di Camilla Ravera, La donna italiana dal primo al secondo risorgimento. Insomma, ecco, quindi dal primo al secondo risorgimento. Ora, noi in realtà non abbiamo inteso proprio ripercorrere questa immagine, anche se almeno uno dei percorsi che abbiamo cercato di delineare vi potrebbe alludere e ne ripropone il tema. Di fatto, cioè, siamo risalite agli ultimi decenni del secolo scorso perché ci è parso di ravvisare in alcune figure Jessie White Mario, Cristina Trivulzio di Belgioioso, Marietta Campo in Sicilia, le iniziatrici in qualche modo di tutta una modalità di scrivere storia, storia del risorgimento, che come vedremo prende avvio nei primi decenni del Novecento in Italia e in particolare intorno al 1911, che è il centenario dell'Unità d'Italia, scusatemi, il cinquantenario dell'Unità d'Italia, per proseguire poi negli anni 20 e 30. In una sorta di tradizione di presenze femminili nel fare storia che a ben vedere arriva appunto da Jessie White Mario, si potrebbe dire, fino a Emilia Morelli. Di fatto la maggior parte di questi studi però si colloca negli anni 20 e 30. Sono anche gli anni in cui si vengono profilando i primi percorsi di insegnamento della storia nelle università da parte delle donne. Proprio mentre la storia accentua fortemente il suo carattere di genere maschile. È il caso di ricordare che alle donne viene impedito da Gentile di insegnare storia nei licei. In questo caso, perché storia nei licei era abbinata a filosofia istituzionalmente e quindi era esplicitamente riservata agli uomini perché la filosofia è disciplina maschile e anche la storia per trascinamento nei licei appunto diventa questa disciplina maschile. Ora, ho citato questa cosa di Gentile, come d'altra parte anche l'altro dato, cioè che Gentile negli anni 20 butta fuori le donne dalla scuola normale superiore di Pisa. Ora, questo è un fatto piuttosto rilevante perché la scuola normale superiore di Pisa era in qualche modo un po' una filière dalla quale poi si costituivano, insomma, carriere di insegnamento nei licei. Allora, nei licei e anche le università. Quindi è significativo, però questa significatività al tempo stesso non vorremmo così tanto sottolinearla perché è più di carattere ideologico e simbolico che poi concretamente nei fatti, nel senso che assenti quindi dall'insegnamento della storia nei licei, però in realtà molte donne, abbiamo visto, continuano a insegnare storia invece in tanti altri tipi di scuola, negli istituti femminili, nei magisteri, laddove cioè la storia non era abbinata alla filosofia ma era abbinata invece alla geografia o a materie letterarie. Per esempio, una delle figure che abbiamo visto e molto interessante, poi vedremo, Clelia Fano, che è questa insegnante di scuola media superiore, insomma, a Reggio Emilia, insegna ha una carriera dal 1900 al 1935 e insegna materie letterarie e storia. In realtà c'è è molto importante, insomma, questa esclusione, però vorremmo anche sottolineare come di fatto le donne si collano con un po', ed è quello che caratterizza poi in questo percorso tutto il fare storia delle donne in Italia, si collocano un po' in questa sezione di margine in qualche modo tra una disciplina e anche un'organizzazione professionale e accademica della disciplina che le esclude e poi in realtà, insomma, un ambito piuttosto vasto, insomma, nel quale invece si trovano di fatto e a insegnare e a divulgare e a scrivere di storia. Ecco. E d'altra parte poi forse non erano moltissime le donne che all'inizio degli anni 20 occupavano cattedre di storia e di filosofia nei licei, insomma. Un'altra piccola osservazione rispetto invece alla presenza delle donne negli istituti femminili, sì, indubbiamente. È anche vero però che in quelli più prestigiosi, come per esempio il Conservatorio della Santissima Annunziata, Poggio Imperiale di Firenze, oppure appunto il Collegio delle Fanciulle di Milano, qui invece l'insegnamento della storia era svolto da uomini. Allora, anche questo è un dato da tenere presente. Poggio Imperiale insegnava Raffaello Ciasca, un insegnante uomo, Francesco Bubbolini, era anche al Collegio delle Fanciulle di Milano, Sansone Alfonso a Palermo. Ecco, quindi anche prima della riforma Gentile, sembrerebbe di poter dire, c'era una caratterizzazione della storia come materia maschile forte. Ecco. Allora, proseguendo quindi nella discussione di questa periodizzazione, abbiamo detto gli anni 20, gli anni 20-30, e anche la apparente contraddittorietà di questi dati, per un verso escluse dall'insegnamento di storia nei licei, ma proprio nello stesso periodo arrivano a insegnare storia nelle università. Allora, dati apparentemente contraddittori che però indicano nel periodo fra le due guerre un momento particolarmente rilevante nel percorso che vogliamo seguire. Ora, le connessioni con le categorie di fascismo e antifascismo, periodo tra le due guerre, sono in realtà connessioni per ora poco percorribili, se non nel loro rapporto con quella che fu comunque una crescita, almeno quantitativa, dei luoghi della ricerca e della produzione. Semmai questo, come dire, insomma, il rapporto con queste categorie forse andrebbe più rintracciato nelle biografie, nei percorsi biografici, che non nella produzione scientifica, dove si coglie per alcune, ma non è ancora un elemento rilevante. Il periodo successivo, cioè il periodo della guerra e del secondo dopoguerra, con l'elaborazione della memoria della resistenza, è un terminus ad equem su cui in realtà non abbiamo ancora elementi per dire se suscitò e in che modo la stessa passione di ricerca e scrittura che vedremo per il periodo post-risorgimentale e di costruzione dell'identità nazionale. Però in realtà pensiamo che qui siano cambiate davvero molte cose, per esempio quegli annuari delle scuole in cui pubblicavano gli insegnanti e quindi anche tante insegnanti che le loro ricerche storiche, e questo è tutto un mondo che mi pare proprio sia scomparso, insomma, cioè cambiano i luoghi anche in cui si fa questo tipo di ricerca. E poi la storia della resistenza, la memoria dell'esistenza, eccetera, è anche appannaggio molto di forze politiche, e qui poi ci sono ulteriori selezioni, insomma. Allora passo ora a Ilaria per il primo filone che abbiamo individuato. Sì, dunque il primo filone che abbiamo individuato è quello del rapporto delle donne con lo studio e la scrittura di storia essenzialmente del Risorgimento. Un filone che quindi potremmo tracciare da Jessie White Mario, dalle donne che sono protagoniste, compagne di protagonisti del Risorgimento, e che percorre la storia di una disciplina che nasce come disciplina più debole rispetto alla storia istituzionalizzata nelle università e che pure si consolida in rapporto alla costruzione della idea di nazione, la costruzione della nazione nation building. Ricerche recenti, anche quelle che io ho condotto sulla costruzione dell'identità nazionale e sui riti della nazione, in realtà sembrano mostrare una certa maggiore partecipazione delle donne alla sfera pubblica di quella che in un primo tempo era stata colta, anche se talvolta per interposta persona, e paiono quindi mettere in discussione la teoria delle sfere separate. Una più attenta lettura dei testi fondamentali della costruzione della identità nazionale a partire dalla fondazione dello Stato unitario sembra consigliare di andare oltre le indicazioni fornite da alcuni testi pedagogici e da alcuni periodici divulgativi degli anni 60 dell'Ottocento, i quali sembravano riservare alla sfera del maschile la memoria degli eventi fondanti dello Stato nazionale. E perché? Perché questi eventi fondanti dello Stato nazionale erano identificabili essenzialmente nella guerra, nelle guerre del Risorgimento. E dunque la memoria di questi eventi doveva essere tramandata e nella famiglia e in qualche modo nella scuola da figure maschili. Ci sono moltissime citazioni che si potrebbero fare al proposito e che salto per ragioni di brevità. Il punto è che il soggetto di questa memoria in un primo tempo ci pareva essere quasi esclusivamente quel padre di famiglia che è stato identificato con il notabile che domina la scena sociale del primo Ottocento, che assurge a protagonista dei sistemi costituzionali rappresentativi, che rimanda a leggi elettorali dirette esclusivamente alla popolazione maschile. Colui al quale viene demandato il compito di controllare e plasmare la memoria storica finisce così per essere significativamente l'elettore, il cittadino a pieno diritto, la figura maschile. E quindi all'interno di questa linea sembrava poco poteva essere lo spazio assegnato alle donne. Eppure indagini più attente ci hanno permesso di cogliere alcune presenze femminili significative che appaiono già dagli anni Ottanta. Da rilevare, perché si tratta di esplorare cronache di giornali locali che raccontano di feste scolastiche, giornali locali molto spesso difficili a loro volta da reperire e dove però si vedono qua e là anche nell'Italia meridionale, non c'è una anche e forse soprattutto nell'Italia meridionale, questo è un punto su cui torneremo, figure di donne, di insegnanti, appunto le prime insegnanti di scuola, che prendono la parola in pubblico per tenere conferenze di storia in occasione di feste nazionali, quindi che assumono questo ruolo di divulgatrici in qualche modo di storia, non fanno naturalmente ricerca originale, ma si appropriano di un ruolo importante nel discorso sulla memoria storica. Talvolta queste conferenze vengono anche pubblicate, come spesso accadeva, magari come piccoli pamphlet a circolazione molto limitata. Ecco, chi sono queste donne? Ne sappiamo abbastanza poco e quindi possiamo soltanto ipotizzare percorsi biografici, donne sulla cui educazione probabilmente ha avuto molto presa una figura paterna, non soltanto per l'accesso alle biblioteche dotate di testi forti, ma anche per esempi di eroismo patriottico, per una partecipazione diretta agli eventi politici del Risorgimento. E qui appunto questo dato del Sud, questo dato di ambienti democratici, il dato forte del movimento democratico e garibaldino emerge probabilmente con una certa rilevanza. Questa Marietta Campo, per esempio, autrice di una monografia su Francesco Riso, edita a Palermo nel 1886, di altre anche opere che non sto qui a citare, scrive Una vita politica della famiglia Campo dal 1848 al 1860, intrecciando significativamente la memoria familiare con la memoria nazionale. E quindi appunto si potrebbe ipotizzare, andando più in profondità, una linea storia del Risorgimento democratico, crispismo, il ruolo di Crispi molto importante negli studi di storia del Risorgimento, soprattutto in Sicilia, e poi nazionalismo è un filone che si ripiega su posizioni certo molto lontane dalle posizioni democratiche e che poi appunto va verso il nazionalismo e infine segue il filone un certo tipo di studi di storia del Risorgimento e rifluisce anche nel fascismo. C'è però un altro elemento che mi sembra molto interessante sottolineare a proposito di questo intreccio tra memorie storiche familiari e memorie storiche nazionali. E cioè appunto questo ruolo che alcune donne cominciano a acquisire nel tramandare una memoria storica che è insieme familiare e nazionale. Su questo vorrei dire molto di più, perché sto impostando una ricerca sull'intreccio che si chiama proprio Famiglia e Nazione, che ha per oggetto l'intreccio fra il discorso sulla famiglia e il discorso sulla nazione, in cui i ruoli di genere entrambi, sia quello maschile che quello femminile, hanno uno spazio importante nel costruire una famiglia che ripensa a se stessa, ripensa alla sua storia dentro la prospettiva della nazione. Qui appunto, però non è possibile in questa sede diffondermi su questo tema che pure mi interesserebbe moltissimo. Di fatto, ecco, se noi cerchiamo di pensare questa partecipazione delle donne agli studi, alla scrittura di storia, in termini di memoria familiare ma anche di memoria nazionale, patriottismo sotto i... le parole chiave patriottismo e nazione, e però anche famiglia, noi capiamo poi perché ha tanto rilievo nella storiografia e nella ideologia poi del rapporto tra famiglia e nazione una figura, un modello femminile forte, quello che è il modello della madre del patriota, della madre dell'eroe. Già negli anni 80 dell'Ottocento si configura come simbolo e mito la figura della madre dei fratelli Cairoli. In seguito la madre di Mazzini avrà nelle biografie mazziniane dalle prime, ma poi molto di più quando il culto di Mazzini a partire dal 1905 viene direttamente cooptato all'interno di un culto del Pantheon nazionale, un ruolo enorme. La madre che educa il figlio ad essere cittadino e quindi che si ripropone come una figura importante nella costruzione dell'identità civile. Non per caso appunto sono anche alcune donne che scriveranno poi anche negli anni tra le due guerre sulla madre di Mazzini. Anna Herrera scrive La vita di Mazzini, Leona Ravenna, Maria Mazzini, stampato a Firenze dalle Monnier nel 1932, collabora alla bibliografia mazziniana, ebrea, vicina a Codignola, insomma anche questa sarebbe una figura tutta da affrontare e da approfondire. Ci interessa però qui più che altro per vedere come in questo rapporto, diciamo, famiglia e nazione si costruisce una specificità anche di contenuto degli interventi delle donne rispetto al Risorgimento. Perso il filo naturalmente. Ecco, però appunto la storia del Risorgimento. Per ora abbiamo accennato semplicemente alla scrittura di alcune donne, come questa appunto Maria Campo, che intrecciano vicende biografiche, la storia della loro famiglia con la storia della patria. Del resto questa è una caratteristica di alcuni interventi, di alcuni dei primi interventi sulla storia del Risorgimento, che comincia a prendere una forma, ma non di disciplina accademica, in realtà una forma più consolidata a partire dalla metà degli anni 90, quando cominciano le grandi ricostruzioni di insieme, e prende, è del 1895, la prima rivista specializzata, la rivista storica del Risorgimento, che dura soltanto 4 anni, quando poi passa in qualche modo il testimone alla Biblioteca Storica del Risorgimento italiano. Nel 1903 al Congresso Internazionale di Scienze Storiche, Villari a Roma depreca ancora la mancanza di una cattedra di storia contemporanea. Depreca il fatto che sia stata bocciata la richiesta di aprire gli archivi fino al 1848. È solo nel 1906 che si arriva a una creazione di una società nazionale per la storia del Risorgimento, che nasce la rivista Il Risorgimento Italiano, e poi la rassegna storica del Risorgimento, che dura ancora nel 1914. Perché richiamo questi momenti istituzionali di una disciplina che appare ancora in qualche maniera una disciplina debole in rapporto alla istituzionalizzazione dell'insegnamento della storia, che è storia essenzialmente antica da una parte e moderna, come si diceva, cioè medievale e moderna dall'altra nell'università. Perché forse è proprio in qualche modo anche la debolezza, tra virgolette, accademica di questa disciplina che intimidisce di meno le donne, che permette forse a loro di cominciare a confrontarsi più facilmente con questi temi. Ed infatti se noi ripercorriamo una fonte come quella della bibliografia storica del Risorgimento, noi troviamo una quantità di figure femminili che scrivono magari un articolo o due, pubblicano erano documenti, accedendo forse a una forma, una prima forma in qualche modo filologica, anche la pubblicazione di documenti, anche se frantumata, non deve essere considerata con semplice degnazione, forse perché è meno difficile editare documenti scritti con grafie quasi contemporanee, forse perché è meno difficile e nello stesso tempo è di un certo interesse cominciare a produrre documenti relativi a un periodo rispetto al quale gli archivi non sono aperti. Quindi qui si apre una questione di rapporto con in qualche modo anche le discipline ausiliarie e le possibilità offerte dall'istituzionalizzarsi delle discipline. Va detto che accanto a questa storia del risorgimento che comincia a prendere forma in modo appunto ancora distante dalle roccaforti della storiografia più classica, ci sono altri luoghi del fare storia, che sono da una parte le deputazioni delle società di storia patria che avevano cominciato a sorgere dopo l'unità e che però sono roccaforte di dell'establishment in qualche modo, e ci sono insieme dall'altra parte ancora le cattedre universitarie di storia. Nelle deputazioni delle società di storia patria, appunto roccaforte, come dicevo, di un certo tipo di establishment molto filologico, non si entrava molto facilmente. Lo stesso Villari, per l'appunto, che era un grande personaggio, fu rifiutato dalla deputazione storia patria fiorentina a lungo. E le donne non ci sono. Soltanto nel 30 noi troviamo questa Clelia Fanno, di cui poi parlerà Anna, nella deputazione storica per le Romagne. Tuttavia, sarebbe molto interessante poter indagare invece la presenza delle donne nei comitati locali dell'Istituto Storico del Risorgimento. Anche questa è una ricerca che ci proponiamo di fare, che abbiamo fatto in modo solo molto incompleto, quindi preferiamo non dare dati che sono ancora tutti da verificare, perché si tratta di ritrovare tutti gli organigrammi di questi istituti che sono poi soggetti a modificazioni e a mutazioni abbastanza frequenti. Io mi fermerei qui per ora, passando la parola di nuovo a Anna, che ci parlerà di alcune di queste figure. Sì, e prima ancora vorrei porre un problema. Avevo accennato appunto a Clelia Fano, figura interessante, perché questa comincia a scrivere praticamente i primi del Novecento e prosegue fino agli anni 40. L'ultimo libro esce postumo nel 41, c'è una premessa interessante di una che si definisce amica e discepola, Maria Teresa Porta, e che un po' ci dà notizie su Clelia. E Clelia in realtà, a partire dagli anni 20 in poi, fondamentalmente scrive di questa storia locale, però con questa accezione forte di storia patria e al tempo stesso di storia nazionale, insomma, storia del risorgimento. In realtà ai primi del Novecento Clelia nel 1904 teneva una conferenza all'Università Popolare di Reggio Emilia, che poi fu pubblicata nella rivista dell'Università Popolare dal titolo Il femminismo e la cultura della donna in Italia. Questa conferenza, fra l'altro, è citata da Anna Rita Buttafuoco in Cronache femminili, è interessantissima perché è una delle posizioni più radicali che vengono espresse in questi anni un po' su tutta la questione del femminismo in Italia, insomma, nel senso che secondo Clelia Fano in realtà c'era stato appunto questo primo nascere del femminismo in Italia, poi subito un confluire delle attese femministe nel socialismo, un'apparente e illusoria risposta da parte del Partito Socialista, che inizialmente si mette sulla strada della rivendicazione dei diritti, ma che poi, diceva Clelia Fano, in realtà questa strada poi non la percorre con decisione. Le donne prese fra la propria battaglia Italia e l'aderenza per un verso al Partito Socialista, per l'altro alle Camere del Lavoro, eccetera, si trova in una situazione difficile, di incertezza anche proprio concreta, e la questione di fondo è che le borghesi non comprendono il femminismo, le operaie sono essenzialmente prese dalla rivendicazione giusta di esigenze materiali e meno curano l'aspetto educativo, l'istruzione è l'elemento di fondo che il femminismo dovrebbe, la battaglia di fondo che il femminismo dovrebbe compiere. Allo stato attuale delle cose, e la conclusione poi è provocatoria e paradossale, in Italia non c'è praticamente femminismo e anche la battaglia per la richiesta del voto politico, a questo punto hanno quasi ragione i socialisti ad essere tiepidi, perché le donne di fatto ancora non sono in grado, insomma, di... ma è provocatoria, insomma, come conclusione. Qualche tempo dopo torna su questi temi, e in particolare poi a lei interessava essenzialmente il mondo delle operaie e la cultura delle donne operaie, con un'altra conferenza nel 6, la funzione sociale dell'operaia. Ora, che cosa succede? Che poi però negli anni successivi non siamo riusciti a ritrovare altri interventi della Fano, che pure invece comincia a scrivere di storia del risorgimento, di storia reggiana, eccetera, ma sulle donne possiamo immaginare una sua militanza, ma insomma voglio dire di interventi pubblici, fine. Mettiamo altri elementi. Lavinia Sacerdote, per esempio. Lavinia Sacerdote, che non fa conferenze sul femminismo, però inizia la propria prima ricerca di storia patria, di patria e memoria, insomma, nel 1907, sempre a Reggio Emilia. Poi l'Emilia è un luogo interessante per questo. In Emilia, con due donne modenesi nel Risorgimento. L'anno dopo pubblica un profilo di Eleonora Reggianini. Queste sono appunto figure di donne che hanno partecipato, insomma, alla vita del Risorgimento. Mentre la Fano lavora su altri documenti, questa sceglie il filone profilo biografico, soggetto donna. Un'altra, Gemma Giovannini Magonio, pubblica nel 1907 Italiane benemerite nel Risorgimento nazionale. Allora inizia questa serie di medaglioni delle donne del Risorgimento. Qualche anno prima però la stessa Magonio Giovannini aveva pubblicato sulle pagine de La missione della donna un articolo in cui aveva discusso i temi dell'emancipazione e del rapporto tra le donne e la sfera pubblica. L'articolo era a sfondo storico, le donne nelle fazioni dei Guelfi e dei Ghibellini, però il problema appunto era quello della partecipazione pubblica delle donne alla vita del paese. Allora, e invece d'altra parte, sempre per citare Anna Maria Mozzoni che tutti noi conosciamo, ma Anna Maria Mozzoni nella sua indefessa attività di militante femminista, di conferenziera, di politica, Anna Maria Mozzoni aveva fatto sempre in questi anni, ma qui siamo verso la fine dell'Ottocento mi sembra, vero, gli anni 70, aveva fatto due conferenze invece di carattere storico. In una aveva ripercorso da Ildebrando da Soana le figure dei pontefici, da Ildebrando da Soana a Pio IX, cercando in qualche modo una dimensione dell'agire politico da parte del potere, e l'altra era sul bonapartismo. Che cosa vuol dire? Insomma, sono ora pochi accenni che diamo, ma voglio dire che qui c'è un problema, insomma, di cui soltanto una ricerca più approfondita potrebbe dirci davvero lo spessore, e cioè il rapporto tra queste donne impegnate nella edificazione della memoria del Risorgimento nazionale e a loro modo partecipi, come abbiamo detto, attraverso questo loro patriottismo militante, insomma, della sfera pubblica, con la cultura del femminismo. E d'altra parte potremmo anche dire, per le femministe, per la cultura del femminismo, il rapporto invece con la dimensione storica. Cioè, in altri termini, che rapporto c'è nei percorsi di queste generazioni di donne tra passione per la storia, impegno politico e cultura femminista? Ora, questo è un rapporto che per le pedagogiste, per alcune pedagogiste ad esempio, è ben individuabile in una matrice e in un percorso che almeno per un buon tratto è comune. Io penso soprattutto a Valeria Benetti Brunelli. Questa Valeria Benetti Brunelli, che è tra le pedagogiste, erano due che insegnavano nelle università in Italia in questo periodo, perché è il caso di dirlo, sono pochissime le donne che nel 30 anni 30 insegnano all'università. Queste sono, una forse l'avrete sentita nominare, Giustanico Fasola che si occupava di arte, storia dell'arte. Poi ci sono le pedagogiste, solo Valeria Benetti Brunelli, molto importante perché poi questa lavora con Lombardo Radice, poi con Gentile, insomma, questa è una molto molto rilevante. E poi c'è la Formigini e la Valeria Benetti Brunelli, facendo un lavoro proprio di elaborazione anche teorica in ambito pedagogico, però hanno un forte interesse anche per la ricostruzione storica, storia dell'educazione, la Formigini, due volumi, storia dell'educazione, la Valeria Benetti Brunello, storia delle donne nella legislazione italiana, e va bene. Allora, quindi per la Valeria Benetti Brunelli questo rapporto è addirittura per un certo tratto proprio un percorso comune, insomma l'unione femminile, cioè lei era dentro, insomma c'è un... Ecco, allora, per le nostre cultrici di storia, storiche in questo senso lato, queste che abbiamo ora profilato, le risorgimentiste, diciamo, insomma, ecco, per queste, questo rapporto come si situa, insomma? Sembra attestato nei primi anni, sembra sparire dopo. Un caso molto indicativo, brevemente, perché questo mi pare il più significativo di tutti, e non è una risorgimentista, proprio per questo significativo anche, Carolina Lanzani. Ora, Carolina Lanzani era una delle poche che erano nei primi del Novecento, erano alla Normale di Pisa, la Scuola Superiore Normale. Carolina Lanzani è figlia d'arte, come tutte quelle che sono all'università sono figlie d'arte, insomma, Carolina... sì, il tempo è vero. Allora, niente, chiudo. Figlia di uno storico. No, come volevo dire che Carolina Lanzani appunto intraprenderà poi più tardi la carriera universitaria passando non a caso attraverso la scuola, perché arrivano all'università ma prima passano dall'insegnamento nelle... questo d'altra parte è anche una trafila anche maschile, no? Che non si occupa di storia del risorgimento ma di storia romana. Allora Carolina Lanzani all'inizio dei propri studi lega significativamente l'interesse per la storia antica e quindi la propria dimensione proprio di lavoro scientifico che diverrà poi la sua disciplina con il femminismo, emblematico il titolo di uno dei suoi primi saggi, Euripide e la questione femminile. A noi al premio Pieroni Bortolotti in questi anni stanno arrivando una miriade di tesi, Euripide e la questione femminile, che ripercorrono pari pari le linee di Carolina Lanzani, insomma, ecco, dove sottolinea, e questo mi è sembrato interessante, la discrepanza tra l'affermarsi in Atene della democrazia, per esempio, e invece la condizione delle donne, un avanzamento politico non corrisponde a eccetera eccetera, un avanzamento delle donne. Ma ci torna anche negli anni 20, nel 21 questa scrive una conferenza che poi pubblica un saggio sulla questione femminile di nuovo nel mondo antico, amplia il tema, è andata avanti, ci ha riflettuto, ci ha messo dentro anche la dimensione religiosa su cui poi lei lavorerà anche nei suoi studi di antichista, insomma, negli anni 20 e poi anche qui basta, cioè domanda, è un errore giovanile? Cioè è allora bisogna dire che poi nel profilarsi, soprattutto nel profilarsi poi di carriere accademiche, di carriere universitarie, questo rapporto con il femminismo si perde, è anche però più in generale la storia di una generazione, anche di femministe italiane, insomma, nel senso che dopo la prima guerra mondiale, insomma, poi sappiamo quale poi trasformazione c'ha il femminismo in Italia, insomma, no? Negli anni del fascismo. Come si perde, come poi diventa invece femminismo italico, e qui la Lanzani è interessante perché forse è proprio su questa linea qua, insomma. Niente, ci dobbiamo fermare. Sì, forse vale la pena di concludere individuando alcune questioni fondamentali, cioè il rapporto tra la scrittura di storia delle donne, la collocazione delle donne in luoghi dell'insegnamento, la scuola come primo parcheggio, diciamo, per le prime laureate illustri in attesa di poter sostenere una libera docenza, poi in alcuni casi rarissimi l'università, e però anche il rapporto delle donne che scrivono di storia appunto con due grandi filoni che sono quelli appunto della storia della patria, della nazione da una parte e dell'impegno femminista dall'altro. E su tutte queste questioni non siamo al momento in grado di dare delle risposte definitive, anche perché appunto i percorsi biografici che abbiamo studiato sono troppo pochi. E quindi su questo concludiamo. Non so se è il caso di dare una brevissima sintesi in tedesco per chi non ha capito. Sì? Ich versuche eine kurze Zusammenfassung selbst auf Deutsch zu machen. Bitte um Entschuldigung. Wir haben versucht, die Rolle der Frauen in der historischen Forschung und Lehre in Italien zu untersuchen. Und zwar nicht nur einzige Biografien, sondern durch eine Betrachtung der Organisationsformen der historischen Forschung in Italien. Geschichte, mittelalterliche und moderne Geschichte und antike, die Geschichte der Antike und Geschichte des Mittelalters waren sehr früh institutionalisiert in der Universitäten, wobei die gleich nach der Einigung mit der Gründung des Universitätssystems schon in den 60er Jahren. Zeitgenössische Geschichte, das heißt Geschichte des Risorgimento, war aber nicht institutionalisiert. Sie war irgendwie ein schwächeres Fach. Und das hat Ähnlichkeiten mit anderen Entwicklungen in anderen Ländern. Und vielleicht ist es doch interessant zu bemerken, dass viele Frauen sich mit der Geschichte des Risorgimento beschäftigt haben. Und zwar durch Geschichte, zum Teil ihre eigene Familie, die eine wichtige Rolle in der Befreiungskriege hatten. Und das ist das erste Problem, die Beziehungen der Frauen, die Geschichte schreiben, mit der Politik, und zwar mit dem National Building, mit dem Prozess von Nation Building. Zweites Problem ist, welches ist das Verhältnis zwischen dieser Geschichtsschreibung der Frauen und dem Engagement in dem Feminismus. Und Anna hat durch dem Beispiel von Carolina Lanzani, aber auch von Anna Maria Mozzoni, die eine der ersten Feministinnen in Italien war, gezeigt, dass es doch eine frühe Das in einzige biografische Biografien kann man doch eine Einheit von Engagement in dem Emanzipationismus und Geschichtsschreibung finden, aber das endet ungefähr in den 1906, 11. Danach hören diese Frauen auf, sich mit Fragen des Feminismus irgendwie zu beschäftigen und konzentrieren sich auf mehr institutionelle Fragen da wäre natürlich die Frage, was vom Feminismus passiert ist nach dem Ersten Weltkrieg vor allem, wobei dieser Feminismus zum Teil in Nationalismus zusammengekommen sind, in eine breite Strömung, und das wäre auch interessant zu betrachten in andere Biografien von Frauen, die auch eine prominente Rolle in der Universität hatten. Ich glaube, ich beende jetzt diese kurze Zusammenfassung, und wir haben jetzt 10 Minuten Pause, und danach hören wir das Referat von Gunda Bartz-Kalmani.